Victoria. Spuntò mentalmente tutte le voci della lista, una dopo l'altra. Non aveva dimenticato niente. Se la sua salvatrice sconosciuta avesse fatto la sua parte, e se Malte si fosse comportato come sempre, non lo avrebbe visto mai più. Prese gli ingredienti che le servivano per preparare polpette e purè e si mise ai fornelli. In Russia sognava di fare l'attrice ed era perfino entrata in una compagnia teatrale, anche se l'aveva mollata non appena si era resa conto che non avrebbe avuto il ruolo della protagonista. Nel giro di qualche ora le sue doti recitative sarebbero state messe alla prova sul serio. E poi sarebbe stata libera.